Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il 21 marzo del 1999 il cinema italiano, spesso bistrattato, vive una delle sue notti più gloriose. A Los Angeles, come ogni anno, va in scena la notte degli Oscar. Tra i film più nominati di quell'edizione degli Academy Awards ci sono colossal hollywoodiani che naturalmente partono con i favori dei pronostici. Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg, La sottile linea rossa di Terrence Malick e anche Shakespeare in Love. Nella cinquina dei titoli che concorrono al premio come miglior film, però, c'è anche un film italiano, La vita è bella. 7 nomination: miglior colonna sonora, miglior sceneggiatura, miglior montaggio, migliore attore protagonista, miglior regia e poi l'anomalia assoluta, la doppia nomination come miglior film e miglior film straniero. La cerimonia degli Oscar procede dai premi meno importanti a quelli più importanti. Così, nel corso della serata, il film riesce ad aggiudicarsi due statuette. Migliore colonna sonora a Nicola Piovani e il vincitore è Nicola Piovani, La vita è bella. E miglior film straniero. Poi, verso la fine della serata, arriva il momento della statuetta al migliore attore. Annuncia il premio Sofia Loren. And the Oscar goes to Roberto! L'avevate indubbiamente già capito. È lui il nostro primo personaggio di oggi. Regista, attore, produttore e mattatore di quello splendido film La vita è bella. Nella magica notte losangelina del 21 marzo 1999, il piccolo grande giullare toscano raggiunge il vertice della sua carriera, il punto più alto della sua fama internazionale, l'Oscar come migliore attore protagonista. Poi sul palco dell'Academy, in un inglese tanto stentato quanto efficace, ringrazia, diverte e commuove il pubblico del Kodak Theater. Thank you, Sofia! I live here the Oscar, but I want you. Really, I would like to thank everybody did the movie because without them I couldn't fly with this movie. Everybody who did the producer, the screenwriter Cerami, Elda Ferri, Gianluigi Braschi, Nicola Piovani, Vittorio Cecchigori, Harvey Weinstein, Mira, Max People. Thank you very much for what you did. And also I would like to thank my parents in Vergaio, in the little village in Italy. They gave me the biggest gift, poverty, and I want to thank them for the rest of my life. Really, but thank you, mama e babbo. La povertà, le umili origini. Roberto non sarebbe diventato quello che è senza l'esperienza delle sue origini contadine che gli hanno regalato l'umiltà, lo spessore e l'irriverenza della sua debordante comicità. La grandezza del comico toscano sta anche e soprattutto nella sua storia, nella sua grande capacità di essersi costruito tutto da solo e da zero. Oggi ripercorreremo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo fino a un incontro decisivo che ne rivelerà il suo grande talento. From before, now that you're out there on your own, remember what is real and what we dream is love alone. Nel discorso di ringraziamento della notte degli Oscar, Benigni cita il paese di Vergaio. Si tratta di una piccola frazione del comune di Prato, dove l'attore e la sua famiglia si trasferiscono nel 1958, quando Roberto ha solo 6 anni. È infatti nato il 27 ottobre del 1952 nel piccolo borgo di Manciano la Misericordia, frazione di Castiglion Fiorentino. È il più giovane di 4 figli, l'unico maschio. I suoi genitori, Luigi Benigni e Isolina Papini, erano contadini. Poi a Prato Luigi ha fatto l'operaio il muratore per provvedere a Roberto e le sue 3 sorelle, Bruna, Albertina e Anna. Roberto da piccolo viene soprannominato Spicciolo per la sua corporatura estremamente gracile. Gli anni di Vergaio sono anni di ristrettezze economiche, ma sono comunque anni felici, immersi nel cuore della più solida e sana provincia italiana del dopoguerra che si nutre di valori semplici, di amore, di spensieratezza e di antifascismo. sono gli anni del circolo ricreativo, il cuore della via del paese, dove si va a chiacchierare, a cenare, a ballare con tutta la famiglia. Roberto in questo contesto cresce coccolato dalle tre sorelle, come ha ricordato in un'intervista televisiva mamma Isolina. C'è le sorelle, guai chi gliele tocca, perché veramente posso dire anche questo, che l'hanno rallevato loro, perché io ho avuto tanto da lavorare per doverli tirare avanti, sicché... E loro se lo leticano, tutte, no? Tutte. E infatti anche se lo leticano, lui era sfortunato, una volta andava nel fuoco, una volta entrava giù nel bottino. Un carattere semplice, allegro, scherzoso, gioioso, così viene descritto Roberto Benigni sin da bambino. A scuola, a catechismo, al circolo, l'istrionesco Roberto dà spettacolo sin da quando è piccolissimo. Un caro amico di Roberto, Roberto Casaglieri, suo compagno di giochi, ricorda che a 5 anni Roberto saliva sul palco del circolo, nelle pause tra un ballo e l'altro, e raccontava barzellette. Il suo percorso di studi inizia dapprima in un seminario di Firenze, poi per cause di forza maggiore, quando la scuola viene distrutta dall'alluvione del 1966, prosegue in un istituto di ragioneria di Prato, dove Roberto consegue il suo diploma. Non studia molto il giovane Benigni, ma a scuola va comunque molto bene, è una spugna, assorbe e assimila tutto ciò con cui viene in contatto. La vera passione però è certamente lo spettacolo. È indubbio che negli inizi di Benigni si stampi a fondo un'impronta popolare, quasi da commedia dell'arte, che attraverserà per sempre la sua visione dello spettacolo. Negli anni intorno al diploma, Roberto mette alla prova la sua capacità di improvvisazione e la sua inventiva ritmica come musicista. Due sono gli amici con cui si esibisce nei più improvvisati luoghi della provincia di Prato: Donato Sannini e Carlo Monni, anche loro aspiranti attori. Subito dopo il diploma, pare che mamma Isolina gli trovi un lavoro in un'azienda. Roberto vi rimane 3 giorni, non è la sua vita. Debutta sul palcoscenico nella primavera del 1972, non ancora ventenne, al Teatro Metastasio di Prato, con lo spettacolo Il Re Nudo di Yevgeny Schwartz, diretto da Paolo Magelli. Poco più tardi, a Firenze, fa la conoscenza di Marco Messeri, con il quale inizia a collaborare portando in scena monologhi e brevi spettacoli, scritti e diretti dallo stesso Messeri. Insieme a Monni e Sannini, alla fine del 1972, arriva la scelta di vita più radicale: tentare la fortuna spostandosi nella capitale, a Roma, per inseguire il sogno del successo. Monni e Sannini vengono a prendere Roberto in auto a Bergaio. Lui ha con sé solo una piccola borsa e la chitarra e si mette a cantare. Smette solo alle 3 di notte, quando ormai sono arrivati a Roma da diverse ore, pronti a iniziare una durissima gavetta. Le macchine passano velocemente e gli autotreni mangiano chilometri, sicuramente vanno molto lontano. Gli autisti si fermano e poi ripartono, dicono c'è nebbia, bisogna andare piano, si lasciano dietro. Si lasciano dietro un sogno metropolitano. A Roma Benigni esordisce con 2 spettacoli, al Teatro dei Satiri, La Contessa e il Cavolfiore e I Burosauri, sempre insieme a Monni e Sannini. Del terzetto è il più giovane, ma è quello più comico, non solo sul palco. I due diranno anni dopo che in quel periodo in cui abitavano anche insieme, non vedevano l'ora che Roberto si alzasse dal letto la mattina per iniziare a ridere. Poco dopo, per Benigni, arriva l'esperienza determinante, il Beat 72. Il Beat 72 è un locale di culto. Nasce a Roma nel 1964 nei locali di Via Belli ad opera di Ulisse Benedetti, che sin dall'anno di fondazione del centro ne assume la direzione artistica. Caratterizzato da un forte impegno civile, il centro si impone con manifestazioni spettacolari di poesia e teatro civile, che vedono la partecipazione di artisti come Carmelo Bene, Franco Molè, Cosimo Cinieri, Otello Sarzi e altri. Dal 1971 al 75 l'attività del centro è tesa alla promozione e al sostegno della nuova scuola romana, costituita da giovani autori che si affermano nel corso degli anni per la loro singolarità, tra i quali Memè Perlini, Giuliano Vasilicò, Bruno Mazzali. Dopo gli anni caldi della contestazione artistica, il B72, grazie anche alla lungimiranza e alla sensibilità di Ulisse Benedetti, diviene uno dei centri propulsori della post-avanguardia teatrale e dà spazio alla particolarissima sperimentazione di Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari, Federico Tiezzi, Sandro Lombardi, Ennio Fantastichini, Mario Martone e ovviamente Roberto Benigni. Il Beat è di fatto uno scantinato, freddo, umido, ma riscaldato dalla passione degli artisti che si esibiscono, si incontrano, si parlano e progettano. Roberto al Beat debutta con uno spettacolo diretto da Sannini, si intitola La Corte delle Stalle, testo di Franz Kreutz. In una scena dello spettacolo passata alla storia di questo leggendario locale, Benigni mima uno stupro usando come vittima il proprio piede destro. Non dovrebbe essere una scena comica, l'avanguardia romana è sperimentalmente seriosa e sembra aver bandito la risata e l'intrattenimento. Il genio di Benigni, però, lo spinge a usare tutta la fisicità e l'irriverenza della sua comicità, contaminando una scena drammatica in maniera clamorosa, rendendola esplosivamente esilarante. Tra il pubblico di quello spettacolo c'è un uomo che è destinato a imprimere alla vita e alla carriera di Roberto la svolta decisiva. Un uomo che per sua stessa successiva ammissione si rotola dalle risate assistendo all'irriverente show di Roberto Benigni. Il suo nome è Giuseppe Bertolucci. Giuseppe Bertolucci. Giuseppe Bertolucci è il secondogenito di Attilio Bertolucci e il fratello minore di Bernardo. In pratica è il figlio di uno dei maggiori poeti italiani del secondo Novecento e fratello di uno dei maggiori registi del nostro cinema. Non è semplice far vedere il proprio talento con dei familiari così ingombranti. Giuseppe è nato a Parma il 27 febbraio 1947. Talento drammaturgico precocissimo, dotato di una verve polemica e di una capacità di raccontare le contraddizioni del mondo senza sconti, Bertolucci Junior, dopo aver fatto l'aiuto regista di Bernardo in La strategia del ragno, esordisce dietro la macchina da presa nel 1971 con il cortometraggio I poveri muoiono prima, seguito dal film per la TV Andare e venire del 1972. È ancora in attesa dell'occasione giusta per esordire nel lungometraggio. Bertolucci è anche un grande amante del teatro, in particolare di un genere preciso di allestimento teatrale. E sono nello stesso tempo le due facce, insomma, io sono un regista di cinema, ma ho anche molto frequentato il monologo a teatro, solo il monologo, non tutto il teatro, ma questo genere che sto formato del monologo, che non so mai se definire come qualcosa di preteatrale, no? Come il massimo invece dell'essenza del teatro. Quando vede Benigni sul palco del Beat, Bertolucci ne intuisce subito le straordinarie potenzialità e ha modo di conoscerlo personalmente. Al Beat dopo gli spettacoli si cena tutti insieme, si tira tardi tra un aneddoto e l'altro, tra un progetto messo in cantiere e altri che muoiono sul nascere. Io incomincio a frequentare Roberto, così come nei lunghi dopo cena e nelle lunghe cene, questo giovanissimo, adesso non mi ricordo di che anno è Roberto, ma insomma credo che avesse poco più di 20 anni, ci delizia con i racconti di questo paese da cui proviene, che è Vergaio, vicino a Prato, e da lì nasce il desiderio di far qualcosa lì. I due arrivano quasi in modo naturale all'idea di lavorare insieme. Il risultato sarà un monologo irresistibile che cambierà i connotati dello spettacolo italiano. Mai più mi chinai, nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. Mi arrestarono un giorno per le donne di il vino. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo la storia degli esordi del grande Roberto Benigni, i suoi primi difficili tempi a Roma, al teatro d'avanguardia del Beat 72, e soprattutto il suo fortuito e fortunato incontro con Giuseppe Bertolucci, regista di cinema con la passione per i monologhi teatrali, il talento nel DNA, figlio del poeta Attilio e fratello del regista Bernardo. I due decidono di lavorare insieme. Bertolucci, insieme agli amici, ha partecipato alla ristrutturazione di un vecchio garage per trasformarlo in un piccolo teatro con due sale, che il gruppo decide di chiamare Alberico e Alberichino. L'inaugurazione di una di queste due sale sembra fatta apposta per il debutto del tandem Bertolucci-Benigni. Nel frattempo erano finiti i lavori di ristrutturazione di questo garage e io e Roberto ci prendiamo l'impegno di inaugurare la sala più piccola. Erano due sale, una sala di 250 posti e una sala sotterranea, una tipica cantina di un centinaio di posti, ma senza avere un'idea precisa di che fare, andiamo nell'Appennino nella mia casa di famiglia in Appennino sopra Parma, e in 3 o 4 giorni non avevamo neanche un registratore, devo dire così, scrivendo quello che apro il rubinetto Roberto, e da lì quei meravigliosi racconti della, e aneddotiche del suo paese viene organizzata in qualcosa che ha probabilmente anche invece una sua, così, un suo senso più che descrittivo, no? Non solamente descrittivo aneddotico, ed è il Cioni Maggio di Gaspare Puglia, che è la prima cosa che abbiamo fatto, il primo monologo con Roberto, che inaugura appunto la sala più piccola, che si chiamava il Birichino. Bertolucci e Benigni, nel loro ritiro artistico, trascorrono la maggior parte del tempo in una stanza. Le pareti tinte di rosa, la porta finestra che fa intravedere il verde di un prato. Benigni parla, Bertolucci ascolta. Ascolta e scrive, riscrive, modifica. Benigni è una miniera inesplorata, un'eruzione linguistica. Bertolucci scopre un mondo che egli stesso definirà l'universo suburbano della provincia toscana, rossa, contadina, sottoproletaria e genitale. È il mondo di Cioni. Nasce uno dei personaggi più fortunati del primo Benigni, un personaggio da commedia dell'arte, volgare, dissacrante, caustico e surreale. Il personaggio inventato da Benigni e Bertolucci ha 25 anni, un gruppo di amici, una mamma, tante delusioni e qualche consolazione. Gli amici si chiamano Bozzone, Ignorante, Buio. Con loro parla sempre della stessa cosa, di donne, di sesso. Per svagarsi vanno a ballare e giocano a poker. Cioni non sopporta la sua mamma, ma allo stesso tempo le vuole bene. La mamma invece detesta il figlio. A Cioni ne capitano di tutti i colori. Quando sembra di avere conquistato una donna, gli amici gli fanno credere che gli è morta la mamma. Quando gioca a carte perde e paga i debiti di gioco concedendo il corpo della mamma a Bozzone. Quando la madre gli trova una ragazza, scopre che è zoppa. L'unico che dà retta a Cioni è Berlinguer, lo spaventapasseri del campo. Qualche volta cerca conforto tra le sottane della mamma o nel ricordo delle novelle che gli raccontava il suo babbo. Nel suo recentissimo libro Cose da dire, Giuseppe Bertolucci dedica un capitolo al suo incontro con Roberto Benigni. In esso spiega che la situazione di quella lunga e affascinante seduta creativa ricalcava quella del set psicanalitico. Da una parte il paziente attore che vomita fuori tutto il suo vissuto infantile e adolescenziale paesano. Dall'altra il terapeuta regista che glielo organizza secondo dei modelli di narrazione e di drammatizzazione. Una seduta fiume di 5 giorni con tanto di transfert e controtransfert. Beh, sì, eravamo, devo dire, entrambi assolutamente alle primissime armi. Quest'idea, e quindi ricorriamo a una formula che è quella del monologo, allora molto poco praticata, nel senso, sì, certo c'erano i recital dei grandi attori, no, dei film dicitori, oppure alcuni grandi monologhi delle star dell'avanguardia come Carmelo Bene o Leo De Berardinis, eccetera, ma il monologo a noi ci sembrava la formula più elementare, no? Più abbordabile, e così appunto Roberto incomincia a raccontare, io un po' nella funzione di quasi uno psicanalista organizzo questo materiale e cerco di tirar fuori quelli che mi sembravano i caratteri più forti di questa, perché stava emergendo in qualche modo una cultura, cioè la cultura di quel, potremmo quasi chiamarlo sottoproletariato, perché no, era proprio questa popolazione tra la città e la campagna, tra la industria e l'agricoltura, una cultura tra il consumismo che stava esplodendo e qualcosa di molto arcaico che in qualche modo aveva i piedi ancora proprio anche per via della lingua toscana, in una cultura veramente contadina arcaica, no? E quindi ci incominciamo a capire dove appunto poi fondamentalmente in questo gioco l'attitudine comica di Roberto viene subito molto in primo piano. Io certo non la sto a mortificare, diciamo, non la sto a cerco di seguirla, no? Il monologo si intitola Cioni Mario di Gaspare e Fu Giulia. Il teatro di quel momento era un teatro in cui l'autore era l'elemento centrale, mentre gli attori parevano quasi accessori. Quel monologo offre ai due il modo più diretto per riaffermare l'importanza assoluta dell'attore nel teatro di parola. Scrivere con Roberto Benigni quel monologo, per Bertolucci comunque, prima di ogni altra cosa, risulta soprattutto per sua stessa ammissione un'irripetibile occasione di piacere e di divertimento, unita alla grande emozione di scoprire un talento. Il monologo firmato da Bertolucci e Benigni inaugura quindi l'Alberichino, la sala che lo stesso Bertolucci ha contribuito a costruire. Il noto regista teatrale Giorgio Prosperi scriverà così in un articolo a proposito della sala. Lo spazio dell'Alberichino è così concentrato che l'attore parla a ridosso del pubblico. Ciò consente quasi soltanto il monologo diretto, la confessione con intonazioni un po' oratorie, di cui il pubblico stesso è l'immediato destinatario. Ciò rende assolutamente impossibile, vuoi ogni effetto di illusione, vuoi di estraniazione, che è una forma più sottile ma non meno illusionistica di metamorfosi istrionica. Se un attore riesce a creare un personaggio che non sia se stesso o la propria caricatura, e a vivere una breve ma emblematica vicenda in codesta area minima, con pochissime suggestioni di arredi e di costumi, tanto di cappello. Vuol dire che codesto attore sa fare la cosa più importante e tuttavia la più difficile dell'arte di un interprete, creare una verità artistica, cioè un caso al tempo stesso particolare e universale. L'Alberichino, quindi, oltre a diventare in breve tempo un teatro d'avanguardia molto alla moda, è da subito un banco di prova fondamentale per ogni attore. Benigni va in scena con il monologo nel dicembre del 1975. Si tratta di un flusso ininterrotto di esternazioni popolaresche, riflessioni tanto secche quanto penetranti, turpiloqui, bestemmie, volgarità. Però è una nuova comicità, nel senso che è tra l'altro una comicità molto legata al linguaggio e a questa lingua, a questa sorta di cocktail abbastanza strano tra il qualcosa che qualcuno allora chiamò anche turpiloquio, eccetera, cioè comunque tutta una terminologia molto legata alla genitalità da una parte e dall'altra invece l'utopia comunista, no? Infatti il monologo si apre con questa specie di essere o non essere, to be or not to be, sulla pronuncia di, su come si pronunciava il nome di Berlinguer o Berlinguer. No? Tutta la notte venne dormita. Solo che stai insieme a Berlinguer. Berlinguer? Sì. Perché? No, niente. Berlinguer? No, sembrava che... No, no, metto per dire. Berlinguer, sono detto Berlinguer. Lo sai, Berlinguer. Berlinguer. Abbiamo con noi Berlinguer. Quanto ci sta? Non lo so. Bravo, Berlinguer. Dai, Berlinguer. Chi è quello? Berlinguer, porca miseria. Berlinguer. Berlinguer, no? Canto per chi non ha fortuna. Canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, canto a quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni, alla rabbia che mi fa. Il monologo Cioni Mario di Gaspare e Fu Giulia è un pezzo straordinario di comicità popolare che sembra partorito dalla debordante vena retorica di un giullare. Sul canovaccio preparato con Bertolucci, Roberto Benigni fa esplodere la sua irriverente genialità. Impossibile non pensare al teatro giullaresco e popolare di Dario Fo, di cui Benigni sembra parlare la stessa lingua. Il sofisticato pubblico dell'Alberichino viene rapidamente conquistato e il monologo ottiene un successo straordinario. Sull'Avanti, Maric Laboggio scrive così. È nato un altro teatro a Roma, è in via Alberico II. Prima il locale era un garage, adesso è diventato un luogo doppiamente usabile. Al piano terreno c'è una sala grande. Sotto, nella buca che al tempo del garage serviva per lavorare alla parte inferiore delle automobili, è scavato un altro spazio. È in questo antro rossastro che abbiamo assistito ad un monologo di straordinario interesse. mani in tasca. Fermo sotto una luce dall'alto, Roberto Benigni, Incioni Mario di Gaspare e Fuggiulia, comincia in stretto toscano ad azzuffarsi con gli accenti di Berlinguer in un soliloquio dove, per associazioni le più impensate, entra a poco tutta la vita di un giovane di paese, amaramente consapevole del tipo di società franta nella quale sta vivendo, e tuttavia con un acre senso di critica, di ironia, di rivolta, blasfemo e tenero, idiota e geniale, bizzarro e comune ad un tempo, un piccolo capolavoro di insolita e accattivante fattura. Rapidamente il pezzo teatrale viene replicato in tutta Italia, ottenendo successi e consensi sempre maggiori. La coppia Benigni-Bertolucci l'anno successivo viene reclutata da Rete 2, allora il secondo canale Rai. A loro il compito di scrivere Onda Libera, un programma di intrattenimento in 4 puntate diretto da Beppe Recchia, in cui Benigni, nei panni di Mario Cioni, appare nel ruolo di presentatore di una serie di gag esilaranti e surreali. Questa è la marcia degli incazzati, questa è la marcia degli arrabbiati, sono incazzato, andate via, sono incazzato perché lo so per fatti via, questa è la marcia degli incazzati, questa è la marcia degli arrabbiati, sono incazzato, sono aggressivo, sono incazzato, se trovo in preda lo mangio vivo, sono incazzato, sono nervoso, sono arrabbiato, sono scontroso, se uno mi dice calmati su, le proprio onde mi si incazza ancora di più. Ed ecco a voi, signori telespettatori, tutta la trasmissione da ridere che si comincia a ridere. Ecco le ballerine che sono mucche, qui era una battuta da ridere, che sono legate, ma la televisione è libera da ridere, è risata libera sulla risata. Ecco il cavallo presentatore, altra cosa da ridere, ed ecco l'impiantito ridicolo, qui si rimane da ridere, e eccomi per ora, la telecamera mi pesa un po', ma mi porto alle comparse. Nel 1977 i due aggiungono il loro terzo tassello alla fulminea collaborazione che li ha visti decollare. Mario Cioni arriva sul grande schermo. Il film si intitola Berlinguer, ti voglio bene. Per Giuseppe Bertolucci si tratta dell'agognato esordio dietro la macchina da presa. Lo spettacolo viene visto da Gianni Minervini e Pupi Avati, che avevano una piccola produzione allora, e ci propongono di ricavare un film da questa cosa. L'operazione è stata esattamente l'opposto di quella che avevamo fatto facendo il monologo, cioè nel monologo un intero paese, no, entrava in questo personaggio, come era come un imbuto, no, che e Roberto si assumeva, no, prendeva e assorbiva tanti personaggi di questa specie di cosmologia del suo paese. Nel film l'operazione è stata un po' l'opposto, quello di capovolgere come questa clessidra, no? E di spargere su tutti i personaggi circostanti, no? I personaggi anche minori, quello che il personaggio del Cioni conteneva. Oggi Berlinguer ti voglio bene è un cult assoluto, un pezzo da collezione venerato e apprezzato da migliaia di appassionati. Nel 1977 è un fiasco. Si tratta di uno dei cosiddetti film proibiti del cinema italiano. Per le situazioni blasfeme, irriverenti, le continue allusioni sessuali, i turpiloqui, il film, girato in meno di un mese con un budget molto ridotto e con la presenza nel cast di una grande diva del cinema italiano come Alida Valli, viene vietato ai minori di 18 anni e rifiutato da alcuni circuiti di distribuzione. Avendolo rivisto anni dopo, un film che ha ancora una carica di violenza verbale molto forte, no? Non è un film non riconciliato, diciamo, no? Non viene metabolizzato così facilmente, rimane ancora un film, come dire, indigesto, no? Indigeribile, e per la gravità, no? E la forza di soprattutto del suo linguaggio, no? Del linguaggio che usa Roberto, che usano tutti i personaggi intorno a lui, questa sorta di, che non è nemmeno sessualità, è proprio una specie di linguaggio genitale, no? Proprio legato quindi a una forma, a una sessualità molto primaria, no? Primaria ed elementare. Nonostante ciò, la fama di Roberto Benigni ha ormai raggiunto dimensioni nazionali e Giuseppe Bertolucci si avvia a diventare un regista affermato, noto e dalla personalità fortemente riconoscibile. Cioni Mario ha portato fortuna a entrambi e continuerà a farlo per molti anni. È questo lino ho del corpo sciolto, lo può cantare solo chi canta di molto. Se vi stupite la reazione strana, perché cancare soprattutto è cosa umana. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati la storia di Roberto Benigni e Giuseppe Bertolucci. I due si incontrano a Roma, nello scantinato del Beat 72, e decidono di scrivere insieme un monologo teatrale per far detonare la prorompente comicità di Roberto. Nasce il personaggio di Mario Cioni, che raccoglie grandi consensi prima nei teatri di Mezza Italia, poi in TV, su Rai 2, e infine anche, se con minor successo, approda al cinema nel film cult Berlinguer Ti voglio bene. Nel 1978 Benigni diventa presenza fissa nello spettacolo televisivo di Renzo Arbore, L'altra domenica, in cui, interpretando un bizzarro e particolare critico cinematografico che non vede mai un film, conquista una vasta popolarità, diventando un personaggio di nicchia, specie fra i telespettatori più illuminati, che riescono ad apprezzarne la comicità travolgente e contagiosa, ma al tempo stesso dissacrante e corrosiva. Ho portato questo elenco dei ministri per far vedere come gli attori non cambiano e la musica è sempre la stessa. Ma che c'entra questo col più? Vabbè. Ecco, allora abbiamo il regista, simbolicamente, il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti. Benigni, non ti muovere su quella poltrona, per favore. No, anzi. Allora, dicevamo, il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti. Benigni, ho detto per favore, non ti muovere su quella poltrona, scusa. Io mi viene di appoggiarmi. In quel periodo, oltre alla televisione, si dedica anche agli spettacoli popolari come il Festival dell'Unità, ai quali non manca mai e cui offre il suo contributo di divertita ironia. Celeberrimo ciò che accade il 18 settembre 1983 alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia, dove prende in braccio il leader del PC, Enrico Berlinguer. È un fatto senza precedenti. Fino ad allora i politici italiani erano noti per la loro seriosità e formalità, e Berlinguer era forse il più serio di tutti. Io adesso, dopo questo discorso che vi ha annoiato, vi presento appunto il segretario del Partito Liberale, il quale non è voluto venire qui perché ha detto che non gli piaceva così. Allora abbiamo ripiegato su un altro segretario, che è il segretario del Partito Comunista Italiano. Aspetta, non ho mica detto il nome, no? Non si sa chi è, perché sa lì, ora le cose vanno veloci, a volte trovi subito un altro. Guarda, si sa mai, no? Quindi vorrei presentarvi un poeta della nostra epoca, che insieme a Pascoli e Gozzano è riuscito a rilanciare il lirismo nella politica e nello spirito dell'uomo, che in un'epoca materialista come la nostra si è andato perdendo e qui mi riperdo in un discorso più grande di me, che adesso vi presenterò, l'onorevole Enrico Berlinguer. Vero comunista garantito! Comunista garantito! Io vorrei prenderlo in collo, ma lui non si farà prendere. Sarebbe un mio sogno prendere in collo Berlinguer. Nel 1979 partecipa con brevi ruoli a una serie di film spesso diretti da registi di nome come Costa Gravas o Bernardo Bertolucci, fratello di quel Giuseppe con cui ha cominciato la sua carriera, e come protagonista alla pellicola di Marco Ferreri Chiedo asilo, un apologo sull'ingenuità e la spontaneità dell'infanzia, in cui, maestro di una scuola materna, facendosi piccolo fra i piccoli, riesce a farsi apprezzare e voler bene dai bambini. Anche la carriera dell'amico Beppe Bertolucci prosegue spedita. Dopo l'esordio di Berlinguer ti voglio bene, arriva Oggetti smarriti, che incontra una buona accoglienza da parte della critica italiana. Si tratta di un film dall'impianto narrativo estremamente originale, tutto incentrato su casuali incontri che si susseguono presso una stazione ferroviaria e ruotano intorno al personaggio di una donna borghese in crisi, interpretata da Mariangela Melato. Poco dopo giunge Panni sporchi, un film inchiesta che gli viene commissionato dal Partito Comunista. Nel 1984 i due progettano una nuova collaborazione. Benigni ha accresciuto ulteriormente la propria fama con funamboliche incursioni televisive in cui, tra battute politiche e dissacranti toscanismi rivolti al Papa, non ha perso occasione per far parlare di sé. Ora il nostro Voitilaccione se n'è accorto e allora ha detto l'amore libero, libero amore. E io glielo dico sempre alle donne che incontro, facciamo l'amore libero, libero amore. Perché dobbiamo libero amorarsi. Sdraiamoci. Sbatacchiamoci in terra. Così in quell'anno Roberto inizia una lunga tournée in tutta Italia. Chiede a Giuseppe Bertolucci di riprenderla per trarne una sorta di film documentario. Si intitola Tutto Benigni e vedrà la luce nel 1986. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, non incontrarlo mai. Bertolucci in quel periodo fa una cosa ancora più importante. Presenta a Benigni un'altra figura fondamentale per il prosieguo della sua carriera, lo sceneggiatore Vincenzo Cerami. Il regista sta lavorando con Cerami allo script di Segreti Segreti, un bellissimo film incentrato su vicende di terrorismo declinate però al femminile, grazie a personaggi di spessore cuciti su misura addosso ad attrici bravissime come Lina Sastri e Stefania Sandrelli, magistralmente dirette da Bertolucci. Sì, no, si parte da appena un'idea, una piccola idea, no? Per esempio, non so, qui si tratta del diavolo che viene in mezzo agli affini. Questa è l'idea, non sappiamo null'altro. L'altra idea di Gianni Stecchino sono due sosia, uno è un mafioso e l'altro è un poveraccio, però che quindi si crea un ingranaggio. Con Cerami, Benigni scriverà Il piccolo diavolo, Gianni Stecchino, Il mostro, La vita è bella, Pinocchio, La tigre e la neve. Una collaborazione, la loro, bella e incisiva, che porterà Benigni all'apice della fama internazionale, fino all'Oscar. Un salto enorme, impressionante, se si considerano le umili origini del comico toscano. L'amicizia forte, solida, con Giuseppe e Bertolucci, che non verrà mai meno, il loro incrocio di destini hanno dato intorno al personaggio picaresco di Mario Cioni, hanno permesso a Roberto di mantenere un elemento fondamentale della sua comicità, quell'anima popolare, candida e al tempo stesso irriverente, che è tipica dei grandi comici. Avete capito? La poesia non è fuori, è dentro. Cos'è la poesia? Non chiedermelo più, guardati nello specchio, la poesia sei tu. E vestitele bene le poesie, cercate bene le parole, dovete sceglierle. A volte ci vogliono 8 mesi per trovare una parola. Sceglietele, che la bellezza è cominciata quando qualcuno ha cominciato a scegliere. Da Adamo ed Eva, lo sapete Eva quanto ci ha messo prima di scegliere la foglia di figo giusta? Come mi sta questa, come mi sta questa, come mi sta questa? Ha sfogliato tutti i figli del paradiso terrestre. Innamoratevi, se non vi innamorate è tutto morto, morto tutto è. Vi dovete innamorare e diventa tutto vivo, si muove tutto. Se tu mi avessi chiesto come stai, se tu mi avessi chiesto mi hai pensato, t'avrei risposto bene, certo sai. Senza fiato, mi perdo nel tuo sguardo colossale, la stella polare.